You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio, e cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti, bentornati all'appuntamento di Radio 24 che racconta ogni volta, ogni sabato, quest'Italia che cambia grazie alla presenza di persone. Questa sera abbiamo un graditissimo ospite, in questo caso non nero ma beige, è così Yonis Bashir? Sì, buonasera a tutti. Buonasera, sì, benvenuto. Beige, esatto. Benvenuto. Il colore che ho scelto per me è beige. Beige, quindi. Stasera beige. Perché beige è anche il titolo dello spettacolo che Yonis, che ricorderete tutti per il personaggio di Yonis nella serie televisiva Un medico in famiglia, ma anche per film al quale ha partecipato, canzoni che ha scritto, sta portando in giro per l'Italia uno spettacolo e anche in molte scuole uno spettacolo beige, l'importanza di essere diverso. Sì, infatti il sottotitolo è l'importanza di essere diverso, che all'inizio era solo un sottotitolo, poi andando avanti secondo me è diventato quasi più importante del titolo, perché in effetti al di là del fatto che io colgo l'occasione per parlare della mia diversità, quindi del colore della pelle, ma in realtà il messaggio che voglio trasmettere, poi lo faccio anche molto per i giovani, per le scuole, è che comunque noi siamo unici perché diversi, e quindi tanto vale godersi la propria diversità e farne un cavallo di battaglia, perché io dico che comunque non fa un fattore vincente, invece per alcuni magari a volte essere diversi è un fattore che comunque, insomma, non dico perdente, ma comunque per alcuni è un problema, può diventare, invece no, bisogna farne una, perché noi solo nell'essere noi stessi siamo insostituibili, ecco. Sentiamo allora proprio alcuni estratti dello spettacolo. Io non so niente. Io sono nero di colore, che poi bisogna capire di che colore, perché lì nero, marrone. Allora a questo punto io ho deciso una cosa, io non sono mulatto, sono diversamente bianco. Da che origine sei? Nasce provincino, piazzale delle province, in tenera età, migra verso sud per diventare un montagnolino. Dopo un lungo lavoro su me stesso, qualche occhiata ossessiva allo specchio, a qualche filmato, a qualche foto, secondo me io tono più, tono meno, sono fondamentalmente beige. Allora, insomma, sono soltanto alcuni delle battute, degli estratti da questo spettacolo. Yonis Bashir è uno spettacolo, sì, comico, nel quale appunto la chiave comica serve a riflettere un po', no? Sì. Sulle diversità. Sì, sì, come diceva il famoso Anarchico, una risata vi seppellirà. Cioè, nel senso che con la risata si mette le persone in condizioni di non difesa. e quindi più ricettivi a un argomento di questo tipo, perché tanti stanno sulla difensiva e quindi questo li fa rilassare e poi gli somministri, diciamo, piccole pillole di riflessione, perché a volte appunto uno anche nel quotidiano ha un linguaggio su alcune cose, quindi si è razzisti anche senza accorgersene. Infatti io faccio vari esempi anche di questo, e tra l'altro c'era proprio uno radiofonico che accadde proprio la mattina della prima, io l'ho inserito la sera nello spettacolo e la gente rideva, perché proprio a volte non ci si rende conto. E qual era conto, questo perché... esempio? Che io appunto facevo una telefonica tipo così con una radio romana, questa è una radio di Roma, un amico, questo lo conosco da 30 anni, io so che lui non è un razzista, so che mi vuole bene, ma a un certo punto lui disse: allora abbiamo al telefono Yonis Bashir, attore di Medico in Famiglia Sopra Sotto, fa questo spettacolo sulla diversità, beh, l'importanza di essere diverso, perché? Perché suo padre è somalo e sua madre è italiana, lui è mulatto, però è una persona carinissima. Però io quando dico però, ecco, qui a volte un semplice però, cioè, ribalta tutta la questione. E quando io ho detto questa cosa, l'ho raccontata perché mi è venuta di getto la prima sera e l'ho tenuta sempre, perché veramente quando dico sto però, il teatro viene giù e quindi alla fine è diventato uno dei punti, diciamo, cruciali del racconto, perché ovviamente col crescendo, cioè, la gente esplode, perché ridere delle proprie cose che uno non se ne rende conto è molto... molto forte, che c'è un potere anche catartico, perché poi ci rifletti e dici: Madonna, ma io veramente dico queste cose? E quindi poi si confrontano con me alla fine dello spettacolo e mi dicono: ah, è vero, in effetti io questa cosa. Quindi, sì, a volte si è razzisti a nostra insaputa, no? Perché insaputa. Magari una frase, una battuta che riteniamo innocua, in realtà ha delle sfumature pesanti, ed è giusto, come diceva lei, magari rilassarsi un attimo con una risata e rifletterci su. È uno spettacolo che lei diceva che le piacerebbe e che sta anche portando nelle scuole, no? Che reazione ha dai ragazzi? Ma c'è una lezione fantastica, tant'è vero che, ecco, lì ho una distributrice per le mattinee nella zona centrale, diciamo, di Roma, cioè del centro Italia, volevo dire, e per cui abbiamo una reazione pazzesca, cioè, nel senso che le scuole all'inizio alcune magari erano un po' indecisi, perché il monologo pensa sempre a una cosa grave, drammatica, pesante, invece erano talmente entusiasti che poi le scuole poi ci sono venute a vedere anche in altri paesi, che non erano, in altre città che non erano le loro, perché i professori e i presidi sono rimasti talmente entusiasti, perché loro, i ragazzi, ormai le classi, come la classe di mia figlia, ormai sono diciamo multicolor, mentre magari da piccolo io ero l'unico scuro in tutta la scuola, e quindi ovviamente quindi si coinvolgono tutti in una maniera diretta, e poi chiaramente... Mentre nella parte, diciamo, quando lo faccio nel soirée per i grandi, alcune cose sono di un certo tipo, per i giovani alcune cose l'ho attualizzate, o comunque un'occasione per spiegargli alcuni personaggi che loro non conoscono. E quindi diciamo che ne esce un fatto che loro comunque si divertono come pazzi. Lei appunto è italiano, di mamma italiana e di papà somalo. Ha vissuto pochissimo, sì, in realtà, in Somalia. Sì, ho vissuto dai 6 ai 10 anni e mezzo, tempo delle elementari praticamente. Come si sono conosciuti i suoi genitori? Mio padre studiava qui e era somalo, mio nonno era diplomatico, è stato il primo presidente dell'assemblea somala dopo diciamo, quando la Somalia è diventata indipendente. Mio nonno è stato ministro della sanità in Somalia, quindi mio padre, diciamo, come figlio diplomatico, stava qui a studiare, e mia madre lavorava all'ambasciata somala a Roma, e si sono conosciuti qua. Quindi si sono conosciuti a Roma, era proprio, sì, in quegli anni, il classico incontro come quello che avviene nel film che noi citiamo, Indovina chi viene a cena, no? Questa ragazza bianca, questo ragazzo di colore, come l'hanno presa i suoi nonni? Beh, non credo tanto bene, comunque mia madre era considerata abbastanza un po' pazzarella, diciamo, perché anche per l'epoca, insomma, diciamo, è stata, diciamo, tra virgolette coraggiosa, perché non era facile, insomma, non era di uso comune, perché se io ero uno dei pochi mulatti che si aggirava, vuol dire che c'erano poche coppie miste in giro. Mia nonna, insomma, lì per lì l'ha presa un po' così, forse un po' spaesata, però mio padre era molto simpatico, una persona molto, anche molto charmante, quindi magari probabilmente ha conquistato poi alla fine mia nonna. Comunque lui era una persona in gamba, di cultura, con, insomma, con una certa famiglia alle spalle, e quindi di conseguenza credo che sia stato anche, diciamo, facilitato anche dalla sua posizione, no? Il fatto di essere comunque figlio di un personaggio importante. Certo, era diverso se arrivava qua, che mi ha, diciamo, contestualizzato ad oggi. Se mia madre si fosse presentata con quello che era sbarcato al barcone, sarebbe stata un po' più complicata, diciamo, ecco. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Insomma, l'avete riconosciuta, la colonna sonora di Un medico in famiglia. Parlavo in regia con Roberto, anche lui diceva l'hanno visto tutti questa serie, questo telefilm. Le sta appiccicata addosso, Ionis. Sì. Una fatica a liberarsene. Sì. Però diciamo il personaggio entrato nei cuori. Sì, assolutamente sì. Che rispetto, diciamo, a quanto spazio aveva, diciamo, il mio personaggio, che proprio c'era, era presente sempre, ma non era il principale protagonista, come poteva essere il nonno libero. Però devo dire che è veramente entrato nei cuori e se lo ricordano tutti. In più dicevano che io ho la faccia che buca, e quindi tutti si ricordavano subito dell'infermiere Ionis. Sì, l'infermiere Ionis, e quindi tanta gente, insomma, si è dispiaciuta dal fatto che non c'ero più, l'altro un personaggio, un infermiere di colore, una fiction proprio italianissima, qualche anno fa era una delle prime volte che si vedeva un personaggio beige, no? In una serie italiana, in un ruolo non da extracomunitario, un ruolo di una persona che lavora all'interno di un ospedale. Beh, diciamo, però attenzione, perché all'inizio arrivo come extracomunitario che viene assunto alla ASL, proprio, quindi diciamo che con tutte le problematiche, perché c'era il direttore della ASL che non mi voleva, un po' invece per ironia della sorte poi si affeziona a me perché io mi fidanzo con la nipote. E quindi diciamo che poi mi diceva che è stato trasformato anche il personaggio su sua iniziativa. Sì, io ho smesso di, perché all'inizio parlavo a me con me, ho capito il fatto di fare questo, capito, un po' con accento, un po' arabo, capito? E poi piano piano ho detto, beh, questo qui è qua, a un anno, due anni, alla terza serie, ho detto, beh, adesso facciamolo parlare un po' italiano, insomma, basta con questo. All'inizio era un po' tipo la mamma di Via col Vento. Esatto, un po' Via col Vento, ho detto, adesso basta. Anche perché, diciamo, io un po' spingo un po' verso questa direzione per normalizzare la questione, cioè nel senso che più si dà una connotazione normale a uno con la faccia mia e più la gente capisce, tant'è vero che negli ultimi anni io sono riuscito a fare dei ruoli dove io faccio il romano, ma io lo faccio volutamente non perché voglia recitare in romano, ma anche perché per spingere oltre, se fossi milanese fare il milanese o quello che è che comunque vedendo uno con una colorazione particolare che ha un accento fortemente localizzato, dà una sensazione di familiarità e quindi secondo me si tende a metabolizzare più facilmente la diversità visiva, ecco. E lei ha anche lavorato con Gigi Proietti, leggevo che lo considera il suo mentore. Beh sì, io ho cominciato proprio da zero con lui, andai lì quelle cose che si raccontano, andai con un amico a un provino dove che doveva fare lui. Succede sempre così, a me non mi hanno mai preso con l'amica, hanno sempre preso l'amica. Però è vero, è stata una cosa così casuale per lei? Sì, è stata così casuale. Beh, diciamo che insomma io ho sempre amato un po' la recitazione, insomma avevo fatto qualche pubblicità. Però quella fu proprio così, era la maggior parte poi che parteciparono a quella trasmissione erano tutti attori che venivano dalla scuola di Gigi, insomma, e poi dopo nel tempo lui mi ha continuato a chiamare, nel tempo ho fatto teatro con lui, ho fatto Villa Arzilla con lui, insomma, quindi alla fine nel tempo, insomma, ecco, per me lui è stato veramente uno che mi ha fatto capire tantissime cose in poco tempo e non ho fatto la scuola con lui, ma ho assorbito tantissimo. In Somalia gli arabi non insegnano l'Islam, ma il wahabismo, che è la religione di Stato dell'Arabia Saudita, quella stessa religione che insegna agli estremisti ad odiare gli infedeli. JHD deriva dalla radice JHD, che in arabo significa uno sforzo. Questo è un passo del Mercante di Pietre, un estratto del Mercante di Pietre, un film di Renzo Martinelli di qualche anno fa, nel quale Ionis, lei era uno dei protagonisti. In realtà i protagonisti erano Murray Abraham e l'attore, quell'altro americano, oddio, Harvey Keitel. Harvey Keitel, esatto. Loro erano, poi c'era Jordi Mollà. No, io facevo un piccolo ruolo, però molto, diciamo, molto ben presente, tant'è vero che nel trailer straniero ci sono più io che i loro, quasi, perché la scena iniziale in cui io sono molto presente è talmente bella che alla fine è stata molto usata nel trailer. Infatti ho sempre ringraziato, insomma, Martinelli di avermi così fotografato bene, perché veramente è una scena molto, molto forte e molto, insomma, pesante. Io faccio per la prima volta il somalo, quindi facevo il terrorista somalo. Poi ho partecipato anche a molti film anche divertenti, allegri, simpatici, antipatici di De Sica, la serie di Montalbano, no? Con Il ladro di merendine, dove faceva una parte. È stato il primo film di Montalbano, proprio è stato quello. Ecco, si ritrova più, diciamo, nei ruoli più da terrorista islamico, oppure in questi ruoli più comici, più vicini anche al monologo che sta portando in giro? Ma guarda, io devo dire che come attore mi piace fare entrambi. Diciamo che in questo momento della mia vita mi divertirebbe anche molto fare, cioè, secondo me deve essere presente una parte divertente, ma deve essere presente anche una parte intimista, anche una parte, diciamo, un po' drammatica, per cui mi piace fare entrambi i ruoli, devo dire, con molta intenzione, perché poi, come disse qualche attore famoso, non è una questione di ruoli, ma come sono scritti i ruoli. Perché poi alla fine se sono scritti bene e si riesce a fare qualcosa di bello, insomma, ecco. Comunque molto eclettico, perché passare da dei toni da commedia, dei toni addirittura comici, a questi toni drammatici, bisogna dire molto eclettico, e anche un talento per la musica. Adesso sentiamo una parte delle musiche del nuovo film di Marco Risi, Tre Tocchi, che è in uscita proprio il 13 di novembre. Sei pronto? Motore e azione. Lo sai che mi hanno chiamato pure a me per quel provino? Vabbè. Che c'è importante? Lo sai che è regista? Lo so, sì. Ma che prima è regia, c'era anche lei, maestro. Mi scusi se l'avessi saputo. Oh, no, ma dai, lascia stare. Non me lo farei fare con uno di quegli assistenti che non capiscono un cazzo, ti prego, eh. Ma tu sei bravo, di chi ti preoccupi, amore? Pronto? Frank, sei tu? Cos'è che fa di un cane un cane? Cioè, un cane come attore. Mi volto e vedo le mie decisioni. E so di non essere diventato quello che volevo. Sì, ma così è finto, Francesco. Vedrai come cambierà la musica. Altro che primo attore. È andata così. E questo è il trailer di Tre Tocchi, che è appunto il film di Marco Risi in uscita il 13 di novembre. E ha interpretato anche una parte, no? Sì, i protagonisti sono sei. Sono sei attori principali e poi gli altri diciamo fanno un po' da contorno. Io sono il presidente della squadra degli attori, l'italiana attori esattamente, con cui facciamo partite di beneficenza, e all'interno, diciamo, di questa squadra è un po' nato questo film, questa commedia drammatica, se vogliamo, che era uno spunto per raccontare le sei storie di precariato, quello che un attore, insomma. Perché tutti pensano che l'attore, insomma, è quello pieno, ricco e famoso, ma in realtà ci sono tanti attori che sono disperati, e questo film racconta sei storie di sei attori ed è pieno di piccoli, diciamo, camei. C'è Luca Argentero, Marco Giallini, Lalo Dovini, Francesca Einaudi, Matteo Branciamore, Sebastiano, tantissimi sono gli attori che hanno partecipato, Claudio Santamaria, e io ho fatto anche la colonna sonora, di cui sono molto felice e fiero. Mi incuriosiva che ha fatto anche la drag queen nel film Non c'è due senza tre di Massimo Cappelli. Sì, io faccio l'amico, una banda dell'amico gay dei protagonisti, e nonché faccio la drag queen, di cui sono molto fiero, mi sono divertito come un pazzo, ho fatto anche insieme altre drag queen famose quindi è stata una cosa molto divertente, e faccio anche la colonna sonora in questo caso, e quindi... Beh, insomma, spazia veramente a 360 gradi. Io ho sempre detto che ho una cosa che ho sempre detto che vorrei prima o poi scrivere è il monaco e il terrorista, perché io dico sempre che dentro di me albergano due soggetti, e quindi uno è quello più intimista e un altro è quello più casinista. E diciamo, nei due eccessi vado abbastanza forte, diciamo. Invece, visto che ci siamo dimenticati, io mi sono dimenticata colpevolmente che questo è un invito a cena. I ricordi di Mogadiscio che ha di quando era piccolo sono legati a dei gusti, oppure quando pensa a una cena, visto che l'abbiamo invitata questa sera a Radio 24, gli odori, i gusti sono più italiani? Ma guarda, io essendo nato, diciamo, cresciuto qua, diciamo, ho gusti chiaramente italiani presenti dentro di me, quindi insomma classici piatti nostrani, che sono appunto quelli che conosciamo un po' tutti, che può essere carbonara, matriciana, però nello stesso tempo ho dei ricordi anche della Somalia, per esempio i sambusi, che è un piatto poi in realtà che è di origine indiana, ma lì è un piatto forte, io ce l'ho... Cioè, io solo a parlare viene l'acquolina, che sono dei triangoli tipo di pasta sfoglia che vengono fritti, e dentro c'è della carne macinata, che è un misto che viene tipo vitello, montone, e dentro viene tritata anche, cioè, peperone, cipolla, patate, peperoncino, poi cumino, pepe, coriandolo, quindi è una cosa speziata, e io quando penso a quelli mi piacciono da morire. Quindi quella sicuramente è una cosa che solo a parlarne con voi mi sta venendo l'acquolina. Anche a noi, a dir la verità. E sono un piatto di Mogadiscio, quindi gli odori, i gusti dell'infanzia probabilmente, no? Che degli anni, sì, che è passato, sì, lì. Sì. Ce li ha dei ricordi di quegli anni, perché era abbastanza piccolo? Beh, io mi ricordo tutto. Mi ricordo, rimango sorpreso di quanti ricordi io abbia. Io mi ricordo esattamente le strade di tutta Mogadiscio. Perché lì, sai, uno un pomeriggio usciva, andava in bicicletta con gli amici, non c'era cellulare, non c'era telefonino, i bambini si perdevano per la città, però tornavano per cena, tutti sani e salvi. Adesso siamo diventati molto paranoici in questo. E quindi io siccome ho avuto un momento, insomma, qualche anno fa, che volevo tornare, poi lì la situazione in Somalia è abbastanza grave, e quindi a un certo punto ho avuto un'illuminazione, sono andato su Google Earth, e mi sono fatto un giro con Google Earth per la città, e io ho riconosciuto le case dove abitavo, solo guardando con le mappe dall'alto. E da molti anni che non torna fisicamente? Sì, dal 70 non torno, quindi insomma... Da molto. Diciamo che da molto. Diciamo, ho da letto che il suo rapporto con le sue radici somale è stato altalenante, all'inizio sì. È stato più difficile, c'era quasi un rifiuto... Sì, ma il motivo è perché comunque sostanzialmente mio padre si separò da mia madre e andò via, e sparì per 30 anni, insomma. E quindi diciamo che questa un po' era una rabbia nei suoi confronti, che alla fine poi la Somalia, diciamo, era impersonificata da lui. Il padre. Ma è chiaro che, cioè, una volta che ho fatto pace con quest'idea, una volta che avevo bisogno di completare me stesso attraverso lui, perché comunque a un certo punto hai bisogno dei genitori per completare anche quello che sei, io ho ricercato un po' queste radici, non sono ancora arrivato a compimento totale secondo me, però diciamo che adesso forse c'è un'idea di un film che potrebbe farmi ritornare totalmente all'interno di questa cosa qui, e sto sperando che questo film vada in porto, perché comunque faccio il somalo e quindi sarebbe un'occasione fantastica. Come interprete quindi? Sì, come interprete, quindi anche riparlarlo, ristudiarlo, perché l'ho dimenticato quasi tutto, e quindi riapprofondire questa parte di me che comunque alberga, ma insomma è sempre stata un po' in un angolino, perché poi alla fine, avendo vissuto quasi sempre qua, è stata un po' chiaramente fagocitata dalla parte italo-romana, ecco. Certo, e lo dicevamo dall'inizio, insomma, che quella sì. È la parte probabilmente dominante. I suoi figli invece, queste radici ormai lontane, però insomma che ci sono, come le vivono? Ma diciamo poco, perché noi non frequentiamo somali, questo è il problema, che ultimamente ho cercato un po' di... Però diciamo che all'inizio mia figlia all'inizio non accettava un po', quella più grande, no? Il fatto, ah, ma tu sei, io dicevo, tu sei un quarto somalo, un quarto africano. Lei all'inizio rimane un po' basita e sorpresa, poi un giorno fece un bel discorso chiaro e limpido in macchina mentre l'accompagnavo a scuola, e da quel giorno lei ha cominciato anche a dirlo agli altri con fierezza: io sono un quarto africana. E questa cosa vuol dire che gli ho spiegato esattamente che comunque per me essere metà somalo e metà africano, per me era una cosa di vanto, e gli ho spiegato tutti i motivi positivi, e quindi lei l'ha capito subito, e quindi da quel giorno insomma l'ha accettato. Però insomma c'è volontà di farli appassionare, io vorrei portarli là ovviamente, però insomma non è ancora aria. Intanto in bocca al lupo per i progetti cinematografici e anche per questa rappresentazione teatrale, lo ripetiamo, l'importanza di essere diverso, beige. E dove ci tengo la regia, l'ho fatta insieme a Ettore Bassi, che comunque sì, insomma l'attore, anche lui insomma famoso di tanti film e serie. Poi aspetto tutti quanti al cinema, ovviamente per Tre Tocchi. Tre Tocchi, che è in uscita Marco Risi, un film di Marco Risi in uscita il 13 di novembre, quindi fra pochissimi giorni. Grazie ancora a Yonis Bashir per essere stato con noi questa sera. Buona serata. Grazie a voi, arrivederci, buona serata. Buona serata. In regia si sono alternati Roberto Scaltritti e Gianmarco Ferronato. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of